nel rosaio dei filosofi, senza avere la chiave. È come l'uomo che vorrebbe camminare, che vorrebbe senza avere i camminare. Piedi. Senza avere i piedi, che vorrebbe camminare. I piedi? Chi tenta di entrare nel rosario dei filosofi. Sul piano.